Yahya pasal 15. Ti isa lolo ia poli. Wa ubotibu ngolo angguru banari. Wau Allahu Ta'ala ti papau tahe memalihara. Tio tamo hinggi mau timi idu tango to olau, udilah he memungo. Wau tahe mo po oberesi mau timi idu tango, uhe memungo. Alihu memungo mai ngohundua. Ti mongoli ma beresi, sababu pengajari uma pilo lele umai ode oli mongoli. Malo po beresi oli mongoli. Po titua ulo wolau, wau-wau olo mamo titua uoli mongoli. Ode lo tango di la moali momungo lo hihilao, wonu tio di la tua uolo bungolio, odita olo ti mongoli, di la moali momungo wonu di la tua uolau. Wa uboti bungolo angguru, wau ti mongoli tangolio. Tita lo tita ta tua uolau, wau-wau tua uolio, tio ma momungo ngohundua. Wonu timongoli di la tua uolau, timongoli di la moali mohutu olo wolo. Titalo tita ta di la tua uolau, ma pomai lo Allahu Ta'ala ti papau. Ode lo tau mo pomai lo tango mohengu, la patao mai mo olio mota, wau ma po buolio. Wonu timongoli boti tua uolau, wau pengajari u tua uoli mongoli, po hilealo to ton lala u oto hilali mongoli, wau uito ma wohimai lo Allahu Ta'ala ti papau. Wonu timongoli boti mo mungo ngohundua, wau moali mongo muriu, Allahu Ta'ala ti papau, ma popo masahuru olo tau. Odelo Allahu Ta'ala ti papau motoli angu'u, odito olo wa umotoli angi mongoli. Poti tata pulo ti mongoli todelo motoli angu uboito. Wonu ti mongoli maturu ti ma parenda'u, ti mongoli ma tatapu todelo motoli angu'u. Debo odelo wa ulo turu ti ma toton lalo parenda lo Allahu Ta'ala ti papau, waulo ti tatapu todelo motoli angio. Nga amila boti, mailo ia umai oli mongoli. Alihu engahu tatapu to oli mongoli, wau engahi mongoli oduhenga. Utie parendau, alihu ti mongoli musi mototoli anga, odelo wau motoli angi mongoli. Dialuo toli anga ulebe uda amao, lo toli angio lo tau ngota, tamalo pokurubani malo nyawa lio, momantu mongo sahabati lio. Ti mongoli ito mongo sahabati u, wonu ti mongoli mohutuma uma pilo marendau ode oli mongoli. Wa udi lalo molangula oli mongoli wato, sababu wato ito di lamo tota lo uhe pohutu oli tuani lio. Ti mongoli tanggula usaha bati, sababu toton lalo ilo dungohe umonto Allahu Ta'ala ti papau, ma pilo lele umai ode oli mongoli. Dila ti mongoli talo lulawota olau, bo wa utalo lulawota oli mongoli. Wa utalo patatapu oli mongoli, alihu ti mongoli monao, wa umomungo, wa uhungo boito tatapu. Wonu ti mongoli mohutu odito, nga amila uma pohile li mongoli todelomo tangguluu, mawohi mai lo Allahu Ta'ala ti papau. Ti mongoli mai lo hia umai parenda, alihu ti mongoli mototoli anga. Ti isa lolo ia poli odie. Wonu dunia beti mo ingoli mongoli, oto taima wa umale mulo ilo ingowalio. Wonu ti mongoli hepotolo duniawa, ti mongoli ma otoli ango dunia beti, odelo hakulio. Bawa uma lo lawata oli mongoli, alihu ti mongoli didu me maso to lembo alo tau tau wala ta hepotolo duniawa. Uitolo sababu lio, dunia boti moing oli mongoli. Elaima uma ilo ia u oli mongoli, de uwato ngota dilalebe udaa, popo banding yoma oli tuani lio. Wonu ti mongolio ma lo ngarinaya olau, ti mongoli oloma arinaya li mongolio. Wonu ti mongolio ma lo turuti lo ia u, ti mongolio olo ma mo turuti ulo ia li mongoli. Nga amila beti, ma pohutuo li mongolio ode oli mongoli, sababu tangguluu. Sababu ti mongolio di lamoto talo Allahu Ta'ala, talo po ahumai olau. Wonu wa ubeti di lalo na omai lo bisala woli mongolio, ti mongolio di la odusa. Boma satia, di dulu upengalasani li mongolio dusa li mongolio. Ti talo tita ta mo ingou, tio olo mo ingolo Allahu Ta'ala ti papau. Luma dulo ma wa ubeti di la helohutu udipo pe endama he pilohutu lo tau uewo, to wolo ta li mongolio. Ti mongolio di la odusa. Boma satia openu ti mongolio malo ondo unga amila boti, ti mongolio de bota tapu mo ingou, wau mo ingolo Allahu Ta'ala ti papau. Bopa sali boti lo wali, alihu meganapu tulatulade to kitabi odie, ti mongolio mo ingou, wolo udila o alasani. wa uma mapo ahumai tamo turungi londo Allahu Ta'ala ti papa. Tio roh londo Allahu Ta'ala ti papa. Tama mapo patata obo banari lo Allahu Ta'ala. Tio tama mo na omai mo sirita to mimbihu pasaliu. Wau ti mongoli olo musi mo silitama to mimbihu pasaliu. Sababu londo umulo mulo lo alomai, ti mongoli wala upe-epe endah.